Ieri domenica purtroppo due operatori sudanesi di Save the Children sono stati uccisi. Sono Abakar El-Tayeb e Yacoub Abdelnaby Ahmed, il primo infermiere e l'altro meccanico. Viaggiavano in un convoglio di veicoli chiaramente contrassegnati come umanitari, ma nonostante questo si sono trovati coinvolti in uno scontro a fuoco e sono morti. Erano appunto in viaggio sulla strada principale fra Mershing e Douma. Stiamo parlando del Sud Darfur. Questa regione del Sudan, in cui è purtroppo in corso un conflitto e una grave crisi umanitaria ormai da oltre 20 mesi. Save the Children è presente in quest'area sin dall'inizio della crisi ed è presente non solo nel Sud Darfur, ma anche nel nord e nel Darfur occidentale, e nella zona in cui sono morti i nostri due colleghi. In particolare, Save the Children gestisce un centro nutrizionale ed alcune cliniche mediche. A seguito di questo grave episodio, al momento le operazioni umanitarie nell'area sono sospese e siamo in attesa di conoscere ulteriori dettagli relativi alla dinamica di quanto accaduto dall'Unione Africana, che ha avviato un'inchiesta. Purtroppo, ecco, questi ultimi mesi sono stati particolarmente duri per la nostra organizzazione, che, lo ricordo, è la più grande organizzazione internazionale indipendente di tutela e promozione dei diritti dei bambini. Sono stati mesi duri perché anche nell'ottobre scorso due altri operatori di Save the Children sono morti. Raif Balik, inglese, responsabile dei programmi, e Nureddin Issa Tayeb, sudanese, un ingegnere sudanese, sono morti a causa dello scoppio di una mina anticarro nel nord del Darfur.